ci credo in quel che dici, sai, ma non mi so spiegare quando cambia l'improvviso. Io le dissi, non lo so, sarà colpa di quel vento che ogni tanto soffia dolce dentro me. Poi di colpo chiuse gli occhi per veder fotografie di paesi lontani e mi chiese thank you.